Piove, piove, la gatta non si muove. Piovendo è. Piovendo è. Oh yeah, a posto siamo. Buongiorno, B2. Ciao Mario, buongiorno. Bella domenica questa, sì. Tipica del periodo. Vabbè. È tempo suo. Oh yeah. Io sto facendo a lavorare. Non ne ho voglia, sinceramente, non voglio fare niente. E poi la domenica specialmente, aiaiaia, a lavorare. Ma dai, beato te che ancora ce la fai, va. C'è il fisico, pensa chi non ha più fisico come me. No, sono fisico, è diverso. E addirittura, senta. Oioia. Vabbè, Ah, mio figlio lavora tutta la notte invece. Beato lui. Vabbè. Succede, dai, dipende dai lavori, è normale, dai. È così. C'è chi fa di più, c'è chi fa di meno, c'è chi fa sedere tutto il giorno in ufficio. Ognuno il suo. Non si sente nessuno di questo cane di morti. Ma guarda, io ho già qualche minuto che ce l'ho acceso, ma non avevo ancora sentito nessuno. Hai sempre il correre a manetta? Sì, sempre sei. 6, 7, dipende, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, faccio fatica a sentire se c'è anche, se non mi arrivi sopra è difficile, è un casino, o purtroppo così, che ci posso fare? Sto guardando dappertutto per cercare un rimedio, ma mi sa che qui è solo questione proprio di terzi, nel senso che sono altri che magari hanno qualche cosa di acceso qui, non c'è niente da fare. Vabbè, andiamo avanti così, che devo dire, e qui non si può fare. Sto acquistando qualche filtro strano. Metto un filtro che ha anche la ricezione, poi, quindi praticamente siamo agli stessi livelli. Se, per esempio, ho una ricezione, ho QRM7, lo cava a 4 o a 3, e poi cala anche il segnale, chi mi arriva, praticamente non risolto niente. Non che ci sono quei filtri per il rumore, che segnali non telefono. Non so, a Claudio bisogna chiederlo, che Claudio già ne sa queste cose. Oh, non lo so, guarda, io sì, so che esistono dei filtri, però so anche che i filtri comunque si attengono alla ricezione. Hai capito? E quindi è un po', non lo so, quanto possa essere utile un filtro a questi livelli qua, Tutto lì che magari se lavorassero soltanto sul rumore sarebbe fantastico, il problema è che lavorano anche sui segnali che arrivano, è come avere un... allora tanto vale che abbasso le refrigerazioni della posta, capito? Quindi siamo lì. Ho capito, perché c'erano quei filtri antidisturbo, però i segnali non ne facevano niente. Non so, bisogna chiedere a Chihuahua. Adesso vedo. Stavo guardando anche su internet, sì, ci sono dei filtri, sono anche dei filtri di rete, eventualmente, eccetera, però finché non sappiamo da dove arrivano questi cavolo di rumori, questo cavolo di QRM, sentivo anche di un attimino sui forum dove parlavano appunto di questo problema, e guarda che c'è chi ha acquistato dei filtri, li ha messi sia di rete che anche a livello di RF antenna, però non ha risolto, e quindi non vorrei trovarmi in altre situazioni, vorrei prendere subito, niente, insomma. Hai capito? L'unica cosa delle volte quando mi metto dentro il sito per arrivare anche un altro barattino che non lo metto a posto, finché non lo vendo me ne vado fuori e poi dopo magari il QRM non ne ho, e magari riesco a sentire anche qualcuno, insomma, come faccio adesso, insomma. Però vabbè, è così, da tenere quello che arriva, dai. Purtroppo è così, non si sarà fatto. Mannaggia la miseria, quando si trovi in queste situazioni puoi anche avere radio da migliaia di euro che non c'è niente da fare. Teniamo a posta, via. Oppure magari è un problema risolvibile, qualche bobina attorno al filo, qualche bobina e rame attorno al filo, non lo so, bisogna chiedere a Claudio, che lui è messo apparecchi, queste cose, vabbè. Adesso sono uscito dalla doccia, adesso mi cambio e ne esco. Beato te, almeno un tempo d'aria, va. Non so neanche dove andare, a questo tempo qua. Una cagata. E così, insomma, ma arrivano avanti anche oggi. No, oggi ho fatto solo l'artipedia. Oggi non c'è nessuno, solo l'artipedia. E allora lo vado a poco, dai. Tranquillo. Scorre veloce. Lo va a poco. È la Stracolma. Io sono arrivato adesso, allora sono uscito di qua alle 6:20, sono rientrato alle 8:30, era piena. Ah, però la gente arriva comunque, nonostante. Ma bene, bene, bene così, dai. La gente, articolati, rimorchi. La merce viaggia. Beh, certo, su un'isola ci mancherebbe, hai voglia. Poi sicuramente c'è anche la posta, quindi fa tutti quei viaggi lì. Bene, dai, di chi c'è lavoro c'è speranza, via. Ha voglia. Voglia, ma non sto iniziando a non averne più voglia. Non avevo più voglia di niente. Uff, basta. Devo inventare qualcosa per non scendere più a lavorare. Oh, io non so neanche cosa significa. Guarda, io ne ho 36 anni di roba, ho 31 anni di contributi. 31 anni di contributi. E il primo anno ci hanno dato 6 anni di lavoro usurante, quindi ne ho 37 anni. E, però poi non si capisce se l'età, non l'età, non ho capito niente. Beh, adesso vogliono tornare alla legge Fornero, 77 anni e 42 credo. Non lo so, comunque vabbè. 77 anni e poi via, non so quali parametri abbiano, perché quota 100 la stanno praticamente demolendo, quindi anzi penso che ce l'abbiano già fatta alla fine. Ma sei anche fortunato, io ho 30 anni di contributo, quindi. Se io arrivo ai contributi, necessari per la pensione, l'età, scusa un attimo Mario, arrivo subito. Sì, non lo so, l'età, però se, ecco, per la legge Fornero io non me la ricordo come, però so che è 67 anni, e non lo so, dipende da quando hai lavorato, quando hai iniziato a lavorare, sei prima del 74 mi sembra, o 76, poi c'è il contributivo, il retributivo, cioè un casino, guarda, bisogna che ti vai a informare dallo sindacato e sicuramente fai prima. Io di pensione me ne intendo molto poco, so che comunque adesso la legge dovrà ritornare alla legge Fornero, ecco, quella lì è quella che praticamente ha inchiappettato tutti quanti, quella che ha lasciato fuori anche gli esodati, quindi figurati tu, proprio perché non avevano gli anni per conseguire, capito, sono stati fuori. Quindi se ritorno a quella legge lì, forse è rovinato, non lo so se contano i contributi, ma presumo di sì, perché se uno c'è 40 anni o 42 anni, quanti devono essere, dovresti andare in pensione anche prima, però ripeto, non prendere con le pinze perché non è una cosa sicura, capito? Sì, quanto, ancora, me lo manca, quindi non ci sto neanche pensando, guarda. Se non ci pensi è meglio. Beh sì, anche perché se cominci a pensare non fai da più. È un bel casino. Quando io ando in pensione mi rompo casa, mi vendo tutto, rimango col camper, mi compro il carrello per metterci la mia arte sopra e vado in giro per il mondo. Io e mia moglie e via, in giro per il mondo. Non è dei figli tu? No. Però lo puoi fare tranquillamente. Anzi, beh. Se si senza figli si può fare, ma anche con i figli volendo, poi ci sono grandi, vabbè. Però sì, si può fare, si può fare. Il più da più la pensione. cosa lì in giro, senza nessun pensiero, via, fin quanto il corpo me lo consente. Quando non me lo consente più mi ammazzo. Non voglio rimanere appeso per nessuno. Che avanti, figurati. Più diventi vecchio, più apprezzi la vita, te lo dico io, fidati. Ah, no, niente, piuttosto col figlio, non me ne frega niente, faccio i miei due guardare davanti alla televisione. Servito e riverito, ma non me la tolgo la vita assolutamente, anzi. Lascio fare tutto al Signore, guarda. Io potrei essere qui, insomma, vabbè. Sono abbastanza credente, anche se non frequento, però. Dai, come? Vabbè, ce n'è tempo, voglia. Ah, sei bravo, una bella soluzione. Ospizio, stacchi nella mia camera, il baracchino te lo farò piazzare. Assolutamente sì. Buon ospizio. Buon ospizio, ma sei per richiesta tu, ti metti una tenda o c'è una boomerang. Hai voglia. Poi allora finirò i miei giorni all'ospizio modulando. Sì, no, ci sono anche molte altre alternative, vorrei. Però sì, in effetti. Ma sì, penso che in camera, una volta che sei in camera, ti metti uno straccio da terra di fuori, non penso di questo figlio a nessuno, eh. Hai capito? Più che altro bisogna averne poi voglia, perché quando sei all'interno dell'ospizio, chissà che baracchino, non lo so, diventerà poi un optional. Sì, modulerò con Claudio, che sarà vecchio decrepito, non capirà più niente. E le dirò, no, stai sbagliando! Ci aggiungeremo tramite frequenza. Ah beh, tutto è possibile. Che hai vicini discutono, chiedo io. E intanto lo fanno sui muretti, lo fanno i giardini, figurati, può fare anche frequenza tranquillamente. Quella deficienza lo permette, dai, non è problema. Ma va bene. Dai Mario, io ti devo lasciare, dai, che la voglia è pronta. Adesso me ne esco un po'. Un po', me ne esco, nei centri commerciali a fare qualche cosa, adesso vediamo. Va bene, ci sentiamo dopo pranzo, intanto devo entrare a casa per pranzo e poi devo andare a lavoro. Ci sentiamo più tardi se ci sei, ok? Ciao! Oh yeah, tranquillo, dai, buona giornata, stai bene, se vai a lavorare buon lavoro, se vai in giro, buon giro, insomma buon tutto. Ci sentiamo più avanti. Ciao! Ciao Mario, ci sentiamo. Ciao a tutti quelli che sono ascoltati e non sono entrati, orecchie pelose, maraviglioni. Ciao! Ciao, buona domenica, ci sentiamo, ciao! Attento Eugenio, ci sei in ascolto? Qualcuno c'è sul 10? Claudio? Thank you. 10, d'accordo? CQ canale 10, brecche. Hola, hola canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, attenzione 10. Ciao Roberto. Ciao Giù, Gianfranco si è sentito, eravamo sul 18, però ho risposto al telefono, prima lui e poi io, passata mezz'ora tra una cosa e l'altra e ci siamo presi che stavamo facendo delle prove. Chi c'era, Gianfranco? Sul 18 eravamo, perché poi lui ha risposto al telefono e poi hanno chiamato a me e ci siamo persi, nel senso è passata una mezz'ora tra la sua telefonata e la mia, non so se poi sia rientrato. Ah, ok, ho capito, no, io accendo adesso, 5 minuti fa, infatti ho fatto un paio di chiamate qua, non risponde mai nessuno. E poi è entrato un attimino Claudio sul 18 per salutare, poi gli ho detto guarda che sto rispondendo al telefono, perché è successo quasi in contemporanea tra me e Gianfranco e stavamo facendo delle prove, non so adesso se gliel'ha riferito a Claudio, ho provato a chiamarlo al 18, speriamo non si sia allontanato senza cosa, perché maleducazione da parte mia. Sì, vabbè, può capitare, dai, può capitare magari che uno si deve assentare così e urgentemente non è un problema quello, ci mancherebbe altro. Già ci sopportiamo a vicenda, guai se non fosse così, Robè. Sì, ok, no, vabbè, siamo persone corrette, educate tutti, dai. Certo che sì, infatti stavo pensando, dunque sono le 11, mezzogiorno me l'ho 20, stavo pensando di fare una telefonata a cosa, a Luca. Ieri l'ho chiamato ma era occupato e forse era il momento delle visite, non si è voluto risolvato probabilmente, o perlomeno era l'ora della cena, perché erano le 6 e qualcosa, la sera loro lì cenano molto presto. Chiamalo che l'hanno dimesso. Mira, volevo dire io, mi ha mandato un messaggio ieri, l'hanno dimesso, mi ha mandato anche la fotografia. Ah, l'hanno dimesso, è meglio così, speriamo che sia bene e che risolva questo problema, che è un problema veramente serio. Oltre che molto antipatico tra l'altro, va bene, dopo le telefono. Allora a questo punto già è a casa sicuramente, dunque non c'è problema, no, perché stavo adesso immedesimandomi agli orari dell'ospedale, no? Perché io li conosco molto bene, perché la sera alle 6 c'è già la cena, per cui non è il caso di disturbare. La mattina lo stesso, prima delle 10 c'è il medico più o meno, verso quell'ora, 10-10 e mezzo c'è il gruppo dei medici, e poi a mezzogiorno c'è di nuovo il pranzo, sicché devi telefonargli in quelle ore, poi a luna ci sono le visite dei parenti, sicché ti devi immedesimare e trovare il momento giusto per poterci parlare quando uno è ricoverato. Mi sono spiegato qua? Sì, si è spiegato perfettamente, però puoi chiamare perché a casa stavo messaggiando poco fa su WhatsApp, quindi chiamalo tranquillamente, no, non penso ci siano problemi. Buongiorno comunque a tutti e buona domenica. Ciao Claudio. Dimmi. Allora, quando stavo facendo proprio con Gianfranco, mi ha detto, mi allontano al telefono, poi hanno chiamato a me e adesso poi sono rientrato dopo un 20 minuti così, perché c'erano due telefonate, e Gianfranco l'hai detto che era al telefono? Sì, tranquillo, ho detto che era al telefono. Si è allontanato anche lui perché doveva fare cosa, ha detto che poi già passava qua sul canale 10, tranquillo. E ok, infatti non volevo fare maleducato, ho detto male, poi entra e non mi sento. No, glielo ho detto io. Avanti Giulio. Ok, sì. Infatti adesso stavo guardando, vediamo un po'. Adesso casomai le mando un messaggio, le mando direttamente, così, continuo anche con voi. Ok. Facciamo così, dai, le mando un messaggio vocale così posso parlare sia con lui che con voi, ok? E prendi qua. No, chiamalo direttamente, non ti preoccupare, ti ho detto, è a casa e adesso vediamo cosa succede, cosa gli hanno fatto, cosa gli hanno detto. Speriamo che si riprenda, che stia bene, io gli ho detto di stare tranquillo, di rilassarsi, di non pensare, perché queste cose sono anche portate da stress, da tantissime cose, pure col diabete deve stare molto molto attento. Vabbè, comunque se lo puoi chiamare, no, ti ripeto, non ci sono problemi. Ok, ho fatto il numero, ma c'è la segreteria telefonica, per cui ho impegnato, ce l'ha spento il telefono. No, stanno messaggiando con me 10 minuti fa su WhatsApp. pace che non prenda, che l'abbia messo da qualche parte, mandale un messaggio, un audio su WhatsApp e dire se lo puoi chiamare, vedi che un po' cosa ti dice. Ehi, faccio così, infatti le mando uno un messaggio vocale magari su WhatsApp e ciccia. Io l'avevo sentito l'ultima volta un bel po' di tempo fa, almeno un mesetto fa, però il problema me l'aveva detto già da un paio di mesi, il problema che aveva, purtroppo è un problema veramente serio, no? Già ne so io le conseguenze, vabbè dai, comunque adesso lo chiamo, non le mando un vocale. Chiappa, va bene, avanti, roba a riprendere, io un pochino, ma non molto, c'è un po' di cose da fare, non sta piovendo. Stavo pulendo dietro il Calverio, ma non mi aiutano, mi sono accatto poco fa, alle 10 mi sono accatto. No, io ero già sveglio da presto, io dormo poco, mi sono suicidato, sono state le 6, non lo so, più o meno quella lì, sono rimasto coricato nel letto, però alle 8:30 ero già in piedi, non c'è problema. No, di coso, ma mi sono dimenticato di dirlo, ieri mattina mi ha mandato il messaggio, coso, come si chiama, Luca, e dice che vuole scendere a casa, dai, gli ho fatto tanti auguri, poi mi ha mandato poco fa un vocale, eccetera, gli ho detto a rimettersi subito, un in bocca al lupo gli ho mandato, dai, speriamo bene. Ok, vediamo se c'è qualcuno sul 10, non c'è nessuno. E oggi usavremo da Rufì, Claudio. No. Voglio un po' di verdure, melanzane, peperoni, cose così. Niente carne, e se no avrai. Niente carne oggi. Oggi verdure. Chi è questo? Avanti? Un ucraino, Forse parlerai in italiano, comunque forse qualcuno lontano. Ok, cosa ti volevo dire? Nuta. Abbiamo fatto ieri quelle prove col coso, con Gianfranco, oggi dovevamo ultimare. Mi ho comprato ieri il coso, il braccio per mettere il monitor, quello che mi ha dato tu, che me ne sta uscendo il collo, perché è troppo in alto, hai visto lo scaffale, il ripiano è troppo in alto, mi fa male il collo. Allora glielo metto snodato in modo che me lo abbasso giù, quando lo devo usare c'è l'altezza di sguardo. Beh, non funziona, perché non funziona tutto. Sì, tutto perfettamente. Poi mi ha dato no, tu non c'eri, sì, quando è venuto mi ha dato quella specie, non dico chiavetta, quella scatoletta che sostituisce la chiavetta, ha avuto difficoltà a installarla e infatti ha detto c'è qualche problemino, però vabbè, era soltanto per fare delle prove. Abbiamo connesso il 2000, abbiamo fatto le prove col 2000 e funziona tutto perfettamente. Adesso bisogna organizzarci per il discorso delle antenne, quello del dubbio mi stanno venendo con quell'antennina lì, speriamo che funzioni quella delle V e delle U. Se non funziona delle gruppareggi o robe, costa 80 euro quelle antenne, 100 euro, ma lo giardino a frutti e la mettiamo come cristiani, ma dovrebbe funzionare perché io ce l'ho uguale. Io ti ripeto, per iniziare è meglio che monti solo adesso in questo periodo, poi d'estate si vedrà, in questo periodo il dipolo e ti fai i 10 con la verticale che funziona molto bene con la mantova, poi ti fai i 15, i 20, i 40, gli 80, cioè hai 5 bande a disposizione e inizi a tastare il terreno, le V e le U ce li hai, poi d'estate si vedrà, perché non è il periodo sicuramente di montare direttive, anche perché ci vuole rotore, devi organizzarti, fare tutto, quindi questo è il consiglio che tiro io. Sì, assolutamente d'accordo, no, non è periodo di quello, però il polo sarebbe bene, almeno per soddisfazione personale, per esci, io ho fatto il primo collegamento in bande HF. Cos'era, almeno per soddisfazione personale, dicesi che ho fatto il primo collegamento in HF e mi metto il polo, per le vuole oggi è abbastanza semplice, non c'è problema per quello. Infatti, cosa dove devi andare? Con quel dipolo viaggi a livello europeo, la grande e anche oltre, non c'è problema. Io con quel dipolo in 40 metri ho fatto Sud America, quindi no, non ce n'è problema, funziona benissimo. Lo piazziamo, come aveva sempre detto Marco, proiezione orizzontale, ben teso, al centro si mette un tubo per mantenere il peso del dipolo e basta, e lavori con quello e poi si vedrà quest'estate. Poi una volta che tu hai già la mano, insomma, che ti appassioni eccetera, allora inizi a fare qualcosa di meglio, ma per me ti conviene iniziare con affilare, soprattutto nel periodo invernale, perché montare direttive come ho fatto io io li ho montate nel periodo invernale, diciamo, quasi d'inverno. Li avevo montate a settembre, ho passato un inverno anche di quelli allucinanti, anche perché sai dove erano messe, quindi a 45 metri di altezza e non dormivo, anche perché fischiano, perché fanno un bel casino, capito Robert? Quindi la decisione è stata te, quello che devi fare, capito? Le filari sono molto, molto più performanti, nel senso che non ti creano problemi e sei molto più sereno, dormi tranquillo. Sì, sì, infatti seguo il tuo consiglio, tu già sei pratico, molto, sicuramente ne sai molto, molto più di me, di quel tipo di discorsi. Ok, appena c'è qualche giornata, un sabato mattina, una domenica, ci organizziamo naturalmente in base alle tue disponibilità e vediamo di fare il tutto. Ok, vediamo se Gianfranco è rientrato, attenzione Gianfranco, se ci si batte un colpo. Provo io, stavo, no, non sono riuscito, gli ho mandato un vocale, poi mi chiamerà lui. Stavo dicendo, sì, guarda, se posso permettermi, anch'io sono d'accordo con quello che ti stava dicendo Claudio adesso in quest'ultimo passaggio che ha fatto, a riguardo del dipolo, eccetera, robe. Sì, beh certo, se tu hai lo spazio per poterlo stendere, il dipolo, perché ci vuole un certo numero di spazio, per cui sono d'accordo anch'io, dovresti andarci piano, nel senso che in inverno non sono lavori molto fattibili, lasciare un po' e aspettare al tempo migliore. Vabbè, dai, scusa, no, io non è che voglio, però sono solo per dire che sono anch'io d'accordo della stessa idea di Claudio. Vai, Robè. Sì, assolutamente, poi io sono tipo, quando ho dei dubbi sempre farsi consigliare a persone più esperte è giusto, quando poi sono persone che le sanno queste cose è anche meglio, è inutile poi fare i preziosi o fare i presuntuosi che sai tutto tu e poi non sai nulla e fai brutti figuri. Ok, cosa volevo dire? Un'altra cosa, qualcuno di voi è aggiornato, me l'ha chiesto un amico carissimo, non è di Sassari, su a Genova, però non ha tempo di farlo, VHF Marino portatile, lui diciamo non, nemmeno ne sapeva che ci fosse necessità oltre le 6.000, ha detto attenzione che è oltre le 6.000 è obbligato, no oltre le 6.000, ho detto guarda che se ci sono state novità di normative cosa bisogna fare, qualcuno è aggiornato? No, io no, ma è Gianfranco, devi dire, lui studia tantissimo in queste cose, è molto più aggiornato sicuramente di me. No, non confondiamo la lana con la setta, vabbè, non è che io sono non so più degli altri, io sono più preparato degli altri in materia. Io ho avuto la mia esperienza personale, nel senso che ho seguito naturalmente i consigli dei carissimi amici radioamatori. Ho montato le antenne nel mese di settembre e chiaramente nel periodo invernale mi sono trovato con queste cose giganti che, non avendo esperienza, avevo paura che ne cadesse tutto. Non è mai successo, non ho mai avuto problemi, però quando c'era tantissimo vento, quando i temporali, quando insomma l'estate era un po' più tranquillo, però devi sempre stare in guardia, mentre con le filari, è quella che ti do io, è una grandissima filare perché è fatta da un grandissimo professionista d'antenne, tu sai chi è, io ho girato tutta l'Europa e anche oltre, ti ho detto, quindi è una bellissima antenna, non ti crea problemi, è grande, è lunga, ma spazio tu ne hai, ci mette come ce l'avevo io, da un punto all'altro del terrazzo che è abbastanza grande, e vedrai che ti dà delle bellissime soddisfazioni, e c'hai 5 bande che sono quelle più interessanti, insomma, dove c'è traffico, le vuoi, le uccidi, hai, e inizi così, poi ti ripeto, quando ti hai fatto la tua esperienza, quando hai la voglia di fare qualcosa in più, allora te la fai, ma non metterti a fare lavori così appena iniziato, perché ti passa subito la fantasia, capito? Io sono stato più di 10 anni senza direttive, senza niente, avevo le V e le U e questo di polo, mi divertivo lo stesso, capito? Mi divertivo lo stesso, a livello chiaramente di divertimento, non di forze motrici come quelli che lo fanno veramente perché lo devono fare, perché hanno la voglia, la capacità, la bravura e tutto ciò che serve, insomma. Io non essendo neanche all'altezza, è chiaro che però mi divertivo, quindi il consiglio mio è inizia col poco e poi vai avanti piano piano, non partire in quarta, perché partendo in quarta ti può passare subito la fantasia. Sì, sono d'accordo, la stessa cosa mi ha detto Gianfranco, facciamole piano piano e passi uno, però fatto bene, come hai detto tu, iniziamo dalle filari, poi il resto si vede. L'unico dubbio potrebbe essere magari se non riesci a eccitare i punti con quella piccola bibanda che ho io, che magari secondo come bisogna metterci magari una direttiva nella direzione del ponte. No, il Vezzero è a Monterraggio, lascia perdere il Vezzero, perché in questo periodo, se poi consulti il presidente che è Fabrizio, ti dirà, ti aggiornerà in merito. Ma l'R0 è a Monterraggio, è un po' in difficoltà perché ancora è da vedere alcune cosette, penso sia le cavità, insomma l'antenna, qualcosa del genere, quindi è a Monterraggio. L'R7 Alfa mi pare che sia nella collinetta di Ittiri, quindi non c'è problema, lo cito io da qua col portatile. L'R2 Alfa è a Fiume Santo, poi c'è l'RU4 che vabbè è dismesso, l'RU1 che è l'Imbara, e citi tutti di ponte, vabbè. L'antenna che ti ho dato io, quella che hai tu, VU è uguale, precisa, identica alla mia, precisa, identica. La posizione in cui l'hai messa non è molto favorevole perché non va montata così, ok, ha bisogno di un piano di massa un po' più largo e deve essere libera, lì è attaccata al tubo della manta, ma non va bene, assolutamente, qualsiasi tipo di antenna VU attaccata allo stesso tubo non va bene, con la staffa palo palo va allontanata almeno di un paio di metri da un'antenna esistente e quindi non va bene, la devi mettere dove hai detto e poi vedrai che funziona tutto ok e vai avanti così piano piano come ho fatto io, come abbiamo fatto tanti. È chiaro che chi ha ripeto le capacità e l'esperienza superiore, sia quella mia oggi sia quella tua oggi, è chiaro che fa delle cose più performanti, capito? Però ci vogliono capacità e di nuovo un bel busciacchera. Vai Giulio. Sì, ma è così, ritenendo secondo me dei consigli ottimi, perché anche perché è il tempo che ti porta consiglio o robe, nel tempo tu fai esperienza e sai quello che effettivamente vuoi fare e che puoi fare nel migliore dei modi, senza stare lì a sprecare, a buttare soldi magari che un domani potresti anche pentirti. Invece in questo modo, man mano che passa il tempo, tu sicuramente in te stesso avrai un consiglio idoneo per continuare l'attività, anzi per iniziare l'attività nel migliore dei modi, sicuramente così, è vero, sono d'accordo anch'io. Se poi si ha lo spazio adesso sul tetto per stendere i dipoli, allora perché non farlo inizialmente, così nel frattempo fai pratica, fai eccetera eccetera. Secondo me è un consiglio ottimo quello che ti ha dato Claudio o Robert, non perché lui è davanti, però ne sono sicuro anch'io, consapevole di quello che ha detto. Vai Robert. Vediamo se qualcuno vuole rientrare, soprattutto se è rientrato Gianfranco. Attenzione qua, su 10 che vuole entrare. No, quello è mai fatto Giulio, che il mio è un dipolo unico, è un dipolo praticamente a 4 bande, perché fai i 20, 15, 40 e gli 80, perché ci ha agganciato anche il dipolo agli 80, che non sono 4 dipoli, è un dipolo unico che mi aveva regalato Marco Scorpio tanti anni fa, e lui c'era uguale da un tradice all'altro, monobanda, e funziona che è una cannonata. Veramente un dipolo fatto bene, con cavo grosso, con fatto molto bene. Tu immaginate che un dipolo che tiene 4 kW, vedi tu come è fatto, ed è molto pesante anche, quindi io siccome l'ho già piazzato e l'ho smontato, quindi glielo piazzo io a Roberto come l'avevo piazzato io, chiaramente facendomi dare un consiglio proprio da Marco, e vabbè, è un ottimo dipolo. Quindi usi quello e c'hai praticamente tutti quasi gli HF, tranne i 160, i 10 metri fai con la verticale che va benissimo, molta gente sta tornando alle verticali, quindi quando senti magari dei segnali un po' più bassi con la mantova è perché loro stanno andando a polarizzazione orizzontale, ma se senti qualcuno che è a polarizzazione verticale con la mantova ti arriva fortissimo, quindi va più che bene, questo è il mio consiglio. Poi ti ripeto, le antenne lo sai che ce le abbiamo, le direttive ce le abbiamo, nel momento in cui decidi, allora sarai tu il padrone delle tue decisioni, diciamo, ecco. Però ti consiglio di iniziare pian pianino, farti la tua esperienza e poi, come ti ha detto Giulio, più avanti si vedrà. Questo è il mio consiglio. Del resto non ti posso dare altri consigli perché ho iniziato così, sono rimasto anni e anni senza antenne a seguire la professionalità degli altri, a imparare, a capire, a sapere, dopodiché chiaramente anch'io ho fatto il mio passo, non me ne sono pentito, per carità, però io le antenne, le direttive, la direttiva grande, la tre elementi, l'ho venduta perché intanto qua non l'avrei piazzata e sarebbe rimasta buttata a carbonati sul tetto. Invece l'ho venduta, quella 5 elementi che ho regalato a te, quella PKW per i 6 metri, quella era un po' più piccola e quindi l'ho conservata e l'ho messa da parte, però ti rendi conto che è sempre un'antenna che 5 metri di boom, insomma è abbastanza grande, quindi ci vuole un rotore serio, un rotore di tu. Comunque, materiale ce l'abbiamo, a tua decisione, sarai tu a decidere quello che vuoi fare. Io l'esperienza me la sono fatta e oggi sto bene così. Avanti Giulio. Ok, infatti, ma è così in effetti. Poi non trascurare mai il detto, Robè, chi va piano va sano e va lontano, così almeno eviti qualsiasi errore, soprattutto qualsiasi impedimento che non dovresti fare, per cui va bene così. Sì, ma ne sono convinto anch'io che così, il discorso è sempre quello. Allora, piano piano tu vai avanti sempre andando e migliorando, per quando non arriverai al massimo e anche di più, perché è così che deve funzionare la vita, ma in tutti i casi, non solamente in fatto di radio riccio e trasmissione, ma in tutte le posizioni e le qualità di vita che noi abbiamo, sempre bisogna andare avanti, sempre piano e sempre con calma e sempre facendo esperienza per andare e ottenere sempre il massimo. È così che dovresti fare, ma sono sicuro che lo farai, che farai così. Sì, come ho fatto piano piano nella banda cittadina, ho iniziato dal portatilino, poi dalla 48, poi Claudio mi ha fatto prendere quel patch e stazione base e poi tutto il resto, dai, da un'antennina, da una mini Grand Prix sono arrivato alla Mantova, poi piano piano gli apparati sono migliorati e così adesso vediamo un pochettino, tutto senza fare passo troppo grande, se no ci cade dentro il buco. Dobbiamo farlo tutto con piano, come abbiamo detto prima, e facendosi consigliare, perché i consigli fanno sempre meglio farsela fare dagli altri l'esperienza prima di fartela tua e fare danno. E certo, così, permesso che poi naturalmente l'ultima decisione deve essere sempre la tua, quella di ovvio, perché nessuno ti può assolutamente obbligare a fare quello che tu non dovresti fare, per dire no. Però quello che conta è andare sempre con il passo, sempre piano piano, fai più strada o robe, non ci sono dubbi, arriverà il giorno e non sarà troppo lontano che avrai il massimo, anche perché nel frattempo magari escono apparecchiature nuove, antenne nuove, e dunque magari potresti pentire, ma io ho comprato un'antenna oggi e la settimana scorsa hanno già presentato un'altra antenna che io non conoscevo, magari avrei potuto prendere quella che era più performante. Tutte queste cose poi vengono al nocciolo o robe, per cui piano piano ti fai la tua esperienza tranquillamente e riesci a ottenere il massimo appunto che uno deve ottenere. Tutto lì, robe. E vediamo, Claudio, c'è ancora? Sì, scusa che mi ha chiamato mia moglie, ma vi stavo ascoltando, non ho perso niente. Io le antenne, quando tu monti una Yagi, quelle poi non è che devi montare cubiche, monti una Yagi, tre elementi, va più che bene, 10, 15, 20, i 40 te li fai col dipolo e sei a posto. Va bene, ottimamente bene, Ma è Gianfranco che fine ha fatto invece? Attento Gianfranco, Franco Franchi. Non lo so, stavo parlando, permetto un attimo il telefono, poi nel telefono, nel frattempo mi ha chiamato Salvatore Maestrale, poi mi ha chiamato questo amico di Genova, che devo dare delle informazioni, eccetera, poi sono stato più di 25 minuti al telefono, tra uno e l'altro. No, io sono rimasto con lui, c'è 18, abbiamo fatto due chiacchiere e poi ti ha appunto detto che mi dovevo allontanare, ti aspetta Roberto, ha detto guarda Roberto parla qui al telefono, e allora faccio qualche altra cosa, ci sentiamo dopo sui 10, quindi sicuramente è impegnato anche lui. Non ti preoccupare, beh sei riuscito Giulio a chiamare a Luca. Beh, gli ho mandato un messaggio vocale, l'ho aperto, l'ho letto, ma ancora non, perché gli avevo detto se ti posso chiamare chiamami, fammi un cenno, magari anche vocale, e così ti chiamo. E invece non mi ha ancora chiamato, però l'ho letto, il messaggio l'ho letto, evidentemente è impegnato. Io lo so che lui a quest'ora di solito è dalla suocera, per cui avrà da fare, è impegnato sicuramente, però già c'è tempo, no, non è un problema quello, figuriamoci. Interessante che sia bene, poi per il resto non ha importanza, o adesso per un'ora è uguale, non cambia proprio niente per me. Avanti Robè. Sì, assolutamente, già rispondeva Mario, probabilmente mi ha mandato un messaggio vocale, lui ieri lo stesso, e poi mi ha chiesto di una cosa, se interessava a qualcuno, di un, come si chiama, Vatmetro Rosmetro, bello, molto bello della Dive. Sì, me l'ha mandato anche a me, ma io non ne uso, vabbè, se non le avrei comprato. Non ne uso strumenti perché le radio sono tutte a posto, ce l'ho uno, ogni tanto l'attacco per controllare se è tutto ok, ma io non, con questa antenna poi non stazionario, non ho niente, quindi infatti me li dà lo strumento della radio, quindi non mi interessa, l'avrei preso se veramente mi serviva. No, cos'era la suocera? È a casa, è uscito ieri sera, cos'era la suocera? Sarà a letto, sarà coricato, sarà a riposo, cos'era? E poi no, non penso che si metta a fare audio, scrivi se devi scrivere. Ok, vabbè, dai. Adesso dopo lo richiamo, faccio di nuovo il numero se risponde, perché appunto c'era il telefono che mi aveva risposto la segreteria, e succede così quando il telefono è scarico, che è sotto carica, oppure che è spento, solo in quel caso lì ti risponde la segreteria, perché non credo che si abbia installato lui la segreteria nella maniera più assoluta. Va bene, vedremo cosa fare, anche perché lo devo contattare, perché adesso fra un po' incominciamo ad accendere anche noi la stufa qua, ancora non ne abbiamo acceso, per cui lui mi aveva parlato di un certo tipo di pelle che voglio appunto contattarlo, per cui se è lui che me lo può fornire, tanto di guadagnato, ci mancherebbe altro. Va bene. Si può? E avanti, dai, per favore, dai, facciamo entrare. Ciao Natalia. Buongiorno, IS0 Lalla. Buongiorno a tutti. Buona domenica. Avanti chi mi ha fatto entrare. Ciao Natale, sei compagnia mia, di Giulio o di Claudio? Avanti Claudio, poi Natalino e poi Giulio. Claudio, salutato, vai Giulio. Ok, ciao Natalino. Ben entrato, dai. L'altro giorno ti avevo appena sentito che avevi di nuovo quel problema fastidiosissimo, accidentaccio, che non si riesca a risolvere questa situazione, proprio guarda, è veramente molto spiacevole la situazione. Vai Natalino. Infatti sto monitorando perché stavo disturbando anche la mia. Però deve essere che il problema era del televisore. E io pensavo che stavo disturbando, capito? Perché adesso non sto disturbando, mi spariva il video addirittura. Ci vuole buttata questa antenna, boh, poi c'ha un'antenna come TG-Doc. E boh, se no non ne tolgo piedi. Probabilmente sì. Mettene una strada radiale o Natalia, provala. O tu mi dirai, ma devo spendere tanti soldi, spendere questi 150-160 euro per comprarti una dei master e sostituisci magari perché ripeto, io ce l'ho attaccata alla televisione, all'antenna della televisione, e devo dire che va benissimo, non mi ha creato mai problemi, né a me né al vicinato, anche perché tu pensi, abbiamo due terrazzini che sono confinanti, divisi semplicemente da un muro, per cui anche lui ce l'ha nel terrazzino l'antenna della TV e nemmeno lui ha nessun disturbo, ed è la mia, l'antenna mia della televisione non è nemmeno a 2 metri di distanza, sarà se no 1,5 metri, una cosa così di distanza, e va bene, va, non ho avuto nessun problema. Speriamo che sia quello che tu possa risolvere la situazione, magari sostituendo l'antenna. Vabbè, lo so che sono spese, però d'altronde se uno vuole tentare, ottenere qualcosa, bisogna fare anche i tentativi, anche a costo di pagare. Vai, Robè. Lo credo. Poi già se la prende subito, se la dica a me, con l'antenna ce n'è gente che la vuole, la tua. Che cos'è, Natalia, la tua antenna? Una Energy è uguale alla BA27L. Capito? Ma adesso vedo che non sto disturbando, forse era il televisore che stava facendo come ha piovuto, deve essere blu. E vabbè, no, metterò anche la Game Master perché ho anche problemi di ricezione con questa antenna, c'ho troppo QRM e non mi va questa antenna, dai. La metterò anche un po' più in alto, adesso vediamo un po' di scendere nella mantova in campagna, così recupero quei 12 metri di palo e vediamo un po'. Anche i 12 metri di palo vuoi mettere a casa tua? Sai perché ti conviene quella? Se no ti avrei detto magari metti la G-Pole, invece no, sai perché? Perché la G-Pole è un po' troppo pesante, per l'installazione che devi fare tu ti occorre un'antenna molto leggera, guarda che la Game Master pesa sia no 2,5 kg, non di più, dunque non è faticoso molto più di tanto per poterla installare, d'altronde ed è anche sicura, per conto mio è sicura, guarda. Probabilmente se mi avessi dato retta al primissimo momento, quando te lo dicevo, forse non avresti avuto mai questo problema con questa persona lì vicino a te, eccetera. Va bene, dai. Vediamo se è rientrato Claudio. Claudio, sei rientrato? Sì, sì, sono qua che stavo facendo una cosetta, ciao Natale, buongiorno. Sì, io per la G-Pro presa 7 kg, è chiaro che la Game Master è più leggera, però con la G-Pod sicuramente da lì ha un guadagno molto superiore, perché una 7 ottavi non c'è bisogno di tirarla molto su una tali, perché questa che ho io può lavorare da zero, quindi da terra, da 1 metro da terra sino a 30 metri, mentre mettere la Master non è così, quindi lì mettendola anche dove è adesso, secondo me va molto meglio della Game Master, però vedi tu quello che vuoi fare. Noi ne abbiamo una a disposizione, ce l'ho io a casa, mi è già arrivata, adesso mi deve dare la risposta a Carlo, se la vuole Carlo, parlo a Carlo, se no c'è Francesco, Danio, poi mi ha chiamato un'altra persona che adesso deve vedere di fare spazio. E poi vabbè, se vi servono non c'è problema, già me le faccio mandare. Ehi, infatti, no Claudio, è troppo pesante. Ma ho visto che trasmettono anche con l'antenna che è bassa. Giulio per esempio non ce l'ha sul palo, quindi io mettendola un po' più in alto risulta che avrei più ricezione con la Game Master, capito? È silenziosa la Game Master, questa qui cazzo è rumorosa, troppo QRM mi va giù, devo stare sempre con lo squelch inserito. Cazzo, no, non mi piace così, mi prenderò una Game Master che è leggera. Poi già lo sai che l'antenna mia come va piazzata, è un macello, cla. Meglio avere un'antenna di zira, chi c'ha ne raggavo e via. Eh sì. Va bene, ottimo. Metti quella lì e non c'è problema, no, vabbè, questa non è così pesante, 7 kg, però è chiaro che c'è poi l'altro elemento, quindi spostarla, fare, monta la Game Master, già va bene lo stesso. spesso, non c'è problema. Io con questa a volte dico, ma la radio è accesa, non c'è un filo di QRM, niente, sento solo il fruscio della radio e basta, lo smitter manco si muove. Se come tocco la Mantova c'ho QRM a Santiago 5. Vai roba. Era tanto, penso che sarà una cosa provvisoria per girare il percorso. Per Natalino, se deve andare a abitare su nell'altra casa, che cacchio, si tiene la mano, va su, e questa se la mette soltanto per dare meno del lucchio, la Game Master. Ehi, la Game Master mi metto, è leggera, capito? Posso tirarla ancora un po' più su, perché questa qui l'ho tirata poco, sui 2 metri mi, dal tetto, non di più. Quindi posso tirarla appena appena più sulla rimasta e guadagno in ricezione. Qua c'ho 7 di QRM, mi 7 di QRM. Se arrivano meno di 7 non li sento, perché tocca andare con lo squelcher, è troppo rumorosa questa antenna. So che la Game Master è molto più silenziosa. Ok, sì, perché secondo me ti conviene quella, se no anch'io ti avrei consigliato da J-Paul, visto, avete considerato che c'è adesso quest'altra possibilità, però è sempre una questione di peso, considerando poi che ha il doppio elemento o la J-Paul, e dunque magari riesce a togliere fuori dal tetto l'antenna, perché è lunga, d'accordo, però poi c'è anche il discorso dell'altro elemento che è più corto, 2,5 metri, e quello magari non riesce a toglierlo più di tanto fuori dal tetto. No, ma l'ideale è quello, intanto il discorso è sempre quello, o arrivare 9 o arrivare 9,5, non è che ci sia poi questa grande differenza, e per cui la Game Master secondo me è quella più ideale nella posizione in cui sei tu, per conto mio, io la vedo così, poi può darsi anche che mi sto sbagliando, ma ripeto, è leggera, è, non deve mettere nessun tirato, non deve mettere niente, perché va bene, e allo stesso tempo le tue soddisfazioni te le prendi ugualmente, no, non è che non te le prendi, sicuramente è meglio di quella che hai adesso, senz'altro. Va bene, dai, purtroppo la posizione che ti trovi è un po' critica, e allora bisogna cercare l'antenna più adatta, e secondo me l'antenna più adatta è proprio quella, la Game Master. Avanti Claudio. Sì, boh, non scelto modulazione. Sì, beh, per lui è quella lì l'antenna da montare, no? Non ci sono dubbi. Io c'ho spazio, non l'ho tirata molto su e va bene, poi d'estate deciderò anch'io cosa fare, se montarla al posto della Mantova o lasciarla dov'è, ma quando la gente ti ascolta hai una buona ricezione, no, non è un problema. Avanti Robè. Assolutamente, poi se devi fare altri tipi di discorsi. Una domanda riguardo del dipolo qua, andavi con poca potenza, perché a me di avere potenza non me ne ha fottuta, io ho quello degli apparati. Allora, ti ho detto che quel dipolo regge 4 kW, quindi tu puoi dare la potenza che vuoi, non ha problemi, non ha bisogno di essere accordato, perché la taratura è quella. Natalino lo conosce bene, perché praticamente c'era lui quando eravamo a casa di Marco. Va bene, no, non ti creare problemi, poi c'è l'accordatore, se ti sposti di banda, dici l'accordatore e lui accorda, No, no, ho detto il contrario, cioè non di potenza, nel senso che io utilizzo poca potenza e con poca potenza vado lo stesso con quel dipolo. Dimenticati una cosa, te lo dico senza nessun problema. Se tu vuoi fare radioamatore, non pensare di entrare a fare radioamatore con 10 watt. O ne hai 100, o ne hai 200, o forse ce ne vogliono anche 500, perché sennò non riuscirai mai ad entrare, soprattutto quando c'è il pile-up a livello internazionale, soprattutto quando trovi corrispondenti che non ti cagano neanche in parole povere, dice chi è questo piccolino, chi è che... perché c'è gente anche in quel settore lì che si credono di essere il re dell'universo, e sono persone uguali a noi, che però hanno la mania della potenza, quindi parlano con chi è forte e con chi è debole, manco lo cagano, quindi dimenticati di entrare non col dipolo, con la direttiva, con qualsiasi tipo di antenna. la radio, il mondo laterale deve essere sempre alla massima potenza, perché altrimenti non arrivi da qua alla Landriga. Ma no, poi non ti fanno entrare se arrivi basso, capito? No, io parlo, ho la potenza dell'apparato, non è un amplificatore, tirano fuori 100 watt l'apparato. A livello di 100 watt, se pone da 150 è meglio, però sappi che il bando laterale deve sfruttare tutta la potenza, non pensate di punire il coso a minimo perché non devi sfruttare la radio. In banda laterale la radio deve dare il massimo della potenza per far sì che l'antenna renda come deve rendere, altrimenti non arrivi da qui alla Landriga. Infatti la domanda mia era per quello, detto, se basta la potenza della radio per spostarti, per almeno a farti sentire, non dico arrivare in Sud America, ma a farti ascoltare decentemente. Io sono arrivato in Sud America col 756 Pro 2 e dava 120-130 watt B&B. Quindi sappi che chi comanda tutto il varavà è sempre la propagazione. Se non c'è propagazione devi avere 6 kW, allora forse ti sento, ma quando c'è propagazione anche con 50 watt passi. L'importante è che il corrispondente che ti risponde sia un corrispondente serio e abbia voglia di fare due chiacchiere, non di misurare la potenza. Non è normale, dai. Ok, vediamo se è rientrato Gianfranco. Gianfranco, ci sei? Nulla. E se c'è qualcun altro, vediamo se vuole entrare. Avanti su 10, vuole entrare. Non so se ho detto qualcosa di sbagliato, poi correggetemi, ma io la penso così. È così, Cla, è così. Cosa... sono fissati con la mania della potenza, qualcuno mi ha fatto abbattimento in UHF, mi ha fatto abbattimento, ma stavo usando 3000 watt, già lo credo, figurati in HF. Ma è così, ma quello dipende sempre da te, vabbè, quello che vuoi fare tu è ovvio, però ormai lo sappiamo, sulle bande radioamatoriali una certa potenza è necessaria, non ci sono dubbi, questo sì. Ma perché ci sono quelle persone che sono convinti di sapere chissà cosa solo perché magari riescono ad arrivare o a ricevere segnali fortissimi. Ma no, invece dovrebbe essere il contrario secondo me, quando un segnale è basso è lì la qualità del radioamatore, secondo me sta in quello, riuscire ad ascoltare anche i segnali bassi, soprattutto i segnali bassi, perché i segnali alti li ascolterebbe chiunque. Io penso che sia così, è un po' anche come la 27 tu magari in quegli anni forse non ti ricordi, ma quando c'erano segnali fortissimi si riusciva a entrare, quando c'erano segnali bassi era difficilissimo entrare, nonostante che era una banda cittadina. E lo stesso discorso penso che sia lì, quando si tratta di potenza, la mania della forza la gente ce l'ha sempre avuta e ce l'avrà sempre, però l'intelligenza delle persone secondo me ricade nel fatto che quando un segnale è piccolino è lì che devo essere capace di riuscire ad ascoltarlo, e con la mia stazione, con la mia qualità, se ce la faccio, se no pazienza, perché miracoli si sa non ne fa nessuno. Ma è vabbè. Sì, infatti anche io 27, la cosa bella, come hai detto tu, sentire qualcuno che altri magari non riescono a sentire, dice, allora vuol dire che c'è una buona antenna e un buon apparecchio di ricezione. È inutile che tu arrivi, ascolti solo quelli 9,40, tutti i segnali furti, e poi magari c'è quello che c'ha un segnale di 3, di 4, come ha detto poi Claudio, ci sono quelli che non gliene ha fatti nulla di sentire quelli piccolini, purtroppo il mondo è bello perché è così, ci sono tutti i gusti e le cose diverse, diciamo. Ok, vai Claudio. Sì, ma io ti ripeto, parlo per la mia esperienza vissuta, io tante volte con grandi radioamatori che tutti conosciamo, con validità, esperienza, qualità, potenza, antenne grandi, performanti, eccetera, a volte diventava il mezzo, vai tra, io andavo e non mi sentiva nessuno. Perché? Perché uno avere delle determinate cose e sapere che ci vogliono quelle cose, io esperienza non ne avevo e quindi stavo al passo, rimanevo in ascolto. Fate voi che io sono qua che vi seguo, mi fa piacere ascoltare. Capito, Roberto? Non pensare di andare in capo al mondo, se poi vuoi fare radioamatore a livello di Fabrizio, faccio un nome, X, che ha delle apparecchiature, delle attrezzature, delle antenne al top, allora allora devi attrezzarti a spendere quattrini. Se vuoi fare